proprio quando sto vicino a te. Sento un gran silenzio dentro in me, non so nemmeno dirti voglio bene. Ma proprio quando sto per dire a te quale dolce sogno sei per me, non so nemmeno dirti voglio bene. Come un poeta dell'Ottocento io lo racconto alla luna perché lei lo ripeta soltanto al vento e il vento possa trasportarlo fino a te. Ma tutto questo è inutile perché proprio quando sto vicino a te non so nemmeno dir ti voglio bene. Proprio quando sto vicino a te, non so nemmeno dir, ti voglio bene.